son qui, ancora in piedi, a piedi nudi, guardami. Non è finita, mai finisce. Io sono qui con la mia joie de vivre. Joie de vivre.